9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 18 novembre. Avete sentito dal lancio della trasmissione, oggi ci occupiamo di capire meglio qual è la prospettiva di chi non si è riconosciuto nel bipolarismo traballante, un po' scazzonte, come io dico sempre, da un vecchio verbo latino che significa che incespica, e ha fatto una scelta diversa, mettendosi al centro, dicendo al PDL da una parte, alleato con la Lega, al PD dall'altra, nel suo continuo travaglio, che non si riconosceva in questa doppia scelta. E tenteremo di capire con il presidente dell'Alleanza per l'Italia, onorevole Francesco Rutelli, le prospettive in questa crisi politica che oramai si apre rispetto a questa legge elettorale, a nuove leggi elettorali, a passaggi di alleanze diverse da quelle attuali in questa stessa legislatura, oppure no, per tentare di capire, insomma, insieme a lui quali sono le indicazioni, le prospettive, gli apprezzamenti dei tempi e che cosa aspettarsi per la politica economica, per la riforma istituzionale del paese da parte di chi ha preso quella scelta. E io quindi, nel salutarvelo, lo ringrazio innanzitutto. Buongiorno onorevole Rutelli. Buongiorno Giannino e agli ascoltatori. Ci accompagnerà nell'analisi Fabio Martini, giornalista della Stampa e collega, che saluto e ringrazio. Buongiorno Martini. Buongiorno a voi. Ecco, prima di fare la prima domanda, onorevole Rutelli, ricordo solo e ringrazio tutti coloro che dopo la trasmissione che abbiamo svolto ieri dedicata alle tasse ci hanno letteralmente inondato di lettere, sms, messaggi. Alcuni di essi ne darò sicuramente lettura a fine trasmissione, perché ovviamente noi siamo anche una radio di servizio, siamo una radio di Confindustria. Devo dirvi che a volte ci si commuove nel toccare con mano, quando molti di voi piccoli imprenditori ci raccontano che stanno chiudendo e non l'hanno ancora detto ai loro dipendenti e sono piegati in due dal dolore, ma ci raccontano soprattutto le spiegazioni del perché dei vincoli amministrativi, fiscali. Insomma, un conto è parlare in termini generali di queste situazioni, altro conto è trovarsi poi la mail intasata dai vostri messaggi che raccontano poi quell'Italia concreta, reale. Io non sono uno di quelli che pensa che si debba descrivere la situazione del paese come perennemente a un millimetro da crisi epocali. Certo è però che a due anni buoni da Lehman Brothers noi siamo ancora nel pieno di una crisi che colpisce la manifattura italiana. Ci sono 200.000 imprese che escono tra 6 settimane dalla moratoria bancaria, con 60 miliardi di euro di capitale che ballano nei confronti delle banche, e il punto interrogativo è che cosa avverrà dopo la moratoria bancaria, che potrebbe essere fine della moratoria, inizio della loro moria. E soprattutto c'è un fisco che nel vostro racconto non è meno pesante di quanto non lo descriva io nelle mie trasmissioni. Alla fine della puntata magari qualche testimonianza, ma intanto cominciamo a entrare nel vivo con il nostro ospite, il presidente di Alleanza per l'Italia. Certamente la prendo non troppo da lontano, ma devo dire che, visto l'esito della legislatura, non si può dire che lei non possa essere soddisfatto con se stesso rispetto alla scelta che ha preso qualche tempo fa nei confronti del PD, è vero o no? Ma non sono certo contento che il PD non sia mai nato, come ho scritto nel libro di un anno fa che accompagnava il mio distacco doloroso. Ho fatto tutto quello che ho potuto per un centrosinistra moderno, lo sa anche Martini, che ha seguito almeno in parte la mia vicenda politica nella Margherita, nell'Ulivo, nel centrosinistra. Però è scritto, questo è il punto di fondo che non si può né ignorare né scantonare. Il bipolarismo in Italia non ce l'ha fatta, e non ce l'ha fatta in entrambe le versioni, Giannino, non ce l'ha fatta sia con le coalizioni, cioè questi lunghi caravanserragli, perché a sinistra, centrosinistra, chi era contro diceva: ma come fanno a tenere insieme da Bertinotti a Mastella, da Dini a Diliberto a Pecoraro Scanio? Ma e a destra si diceva: lì c'è Berlusconi che comanda, almeno ci pensa lui. Ed è fallito a destra in maniera impressionante in 2 anni, tanti quanti ne sono serviti per far fallire, ai noi, il governo Prodi di cui ho fatto parte. Ma è fallito anche nella impostazione semplificata, cioè due maggiori partiti, il PD e il PDL, partiti che fossero in grado di parlare all'intero paese e di guidare in modo più semplice queste coalizioni vissute come troppo rissose. Se lei guarda i risultati elettorali, 2 anni fa questi due partiti hanno raccolto circa il 72%, incluso il mio voto naturalmente, ed oggi Siamo sotto il 50%, 48-49%, un crollo che credo non abbia precedenti nella storia di questo paese. Perché? È un fatto politico o non ha a che fare con quello che lei diceva prima, Giannino, cioè la crisi dell'economia, la mancata capacità di dare risposte, la crisi delle imprese, delle piccole imprese, delle famiglie, del lavoro, cioè a dire in Italia la politica non è in grado di governare nei tempi difficili. Allora, bipolarismo fallito, credo che noi dobbiamo andare verso uno schema trasparente, non 40 partiti, abbiamo formato Alleanza per l'Italia per favorire la nascita di questo nuovo polo, terzo polo, che serva a formare successivamente le coalizioni in grado di rispondere al Paese. Si dirà, in fatto di crisi economica, momenti di crisi economica, gli italiani non ascoltano tanto la politica. No, gli italiani ascoltano molto la politica. Quello che sta accadendo con le trasmissioni che hanno milioni di telespettatori risponde ad un profondo interrogativo degli italiani che vogliono saperne di più, ed anche per questo credo ascoltano trasmissioni come la vostra. Ma chiedo a Martini da Osservatore, e lo chiedo poi anche a Rutelli, dire che il bipolarismo non ha funzionato e perché sono stati tentati tanto le vie delle coalizioni ampie, quindi eterogenee, come ha detto Rutelli, quanto le vie delle semplificazioni su un partito a vocazione maggioritaria, di qua di là, il PDL e il PD, oppure perché, malgrado in 16 anni si sia detto bipolarismo e si siano adottate diverse leggi elettorali, il Mattarellum, il Porcellum e così via, alla fine però, per sopravvivere, i partiti in Parlamento sono sempre rimasti vincolati al darsi i rimborsi per partecipare alle elezioni, bastava che si fosse preso uno 0,7-0,8% a livello nazionale. Cioè la regola fondamentale per la rappresentanza, quella del rimborso elettorale pubblico, è rimasta avvinghiata a un criterio iperproporzionale. Ed è questo in buona sostanza che poi ha consentito in questi 16 anni il frazionamento una volta che in Parlamento, una volta che si andava uniti. Può essere che la mia sia una spiegazione un po' maliziosa, un po' da scettico sui danni che ho visto nella Prima Repubblica dal neoproporzionalismo. Può essere, lo ammetto. Però di qui a vedere una promessa, l'onorevole Rutelli ha detto, non mettiamo 40 partiti, però io devo essere sincero, nel vedere che uno dei punti di questo terzo polo che si fonda è quello di dire il bipolarismo non ha funzionato, torniamo a levare il premio di maggioranza, perché questo poi è il punto di fondo. Io vedo una cosa che a me, per l'esperienza che ho avuto la Prima Repubblica, mi fa venire un po' i brividi, perché ripeto, anche in questi anni di maggioritario siamo rimasti che per dare i soldi ai partiti c'era lo 0,7-0,8, e su questo nessuno è mai riuscito a far cambiare idea al Parlamento italiano. Faccio questa domanda un po' tecnica, Martini, ma solo per sapere se anche a tuo giudizio quello che ci dicono i sondaggi, cioè questo calo di 20-25 punti, anche di più rispetto alle ultime politiche PD e PDL da una parte, è effettivamente il segno di una svolta dopo 16 anni. Tu come la pensi? È molto vera e originale questa lettura che tu hai proposto. Naturalmente, se si dovesse sintetizzare, diciamo, la ragione più profonda della crisi del PDL e del PD, che è stata ricordata dai numeri suggeriti da Rutelli, è forse nella mancanza di un'idea dell'Italia, di idee forti per aggredire, diciamo, le tante crisi che appesantiscono il paese. Da questo punto di vista la questione interpella Rutelli e questo terzo polo, che finora è un'araba fenice, diciamo, un progetto nel quale per ora credono i sondaggisti e gli elettori interpellati assai più che i leader potenziali, perché se si esclude Rutelli che ci crede e lo dice ogni giorno, gli altri due, Fini e Casini, finora non si sono sgolati, diciamo, aspettano gli eventi. Per questo è ancora presto per poter essere esigenti con una cosa che non c'è, ma finora, diciamo, i tre leader potenziali non hanno lasciato capire se abbiano appunto un'idea compiuta e non superficiale dell'Italia che c'è e di quella che vorrebbero. E da questo punto di vista, se il terzo polo si limitasse ad essere il punto di raccolta degli scontenti, non pensa Rutelli che avrebbe vita breve? Che dice Rutelli a questa domanda finale di Martini? Ci sono molte cose che avete detto, provo a svolgere rapidamente. Parto dai soldi ai partiti. È molto giusto quello che ha detto Giannino, perché è valso sin dall'inizio del sistema maggioritario, nel senso che il sistema maggioritario prevedeva uno sbarramento del 4%, ma in parallelo si dava in Parlamento la possibilità di formare dei gruppi molto più piccoli. Esatto. E si continuavano a dare dei soldi a partitini dell'1 o del 2%. Questo non va drammatizzato, le faccio l'esempio del movimento che abbiamo creato noi. Noi non abbiamo finanziamenti politici, ci autofinanziamo, viviamo veramente zero. Per me, anche se vuole, una soddisfazione di poter dire che, avendo partecipato a partiti politici che hanno raccolto molte decine di milioni di euro per spesi per le campagne elettorali, per l'attività, il funzionamento, il personale, grazie ai voti conseguiti, oggi io faccio politica con le idee, in maniera molto semplice. Tornati al tempi del pane e cipolla. Pane e cipolla, quella fu una battaglia per dire che la Margherita, quando noi l'abbiamo costituita, che è stato un partito di 5 milioni di voti, Giannino, nella vita politica di questi anni pochi sono stati partiti a due cifre, e ci siamo fatti, come si dice, un mazzo tanto per far crescere un'aggregazione anche lì, unendo vari partiti. Certo. Quando io ho presentato la Margherita la prima volta, 2001, i sondaggi ci davano il 6-7%, abbiamo preso quasi il 15%, abbiamo unito quattro partiti che non ci pensavano per niente di unirsi, e poi si sono sciolti per fare la Margherita. Questo perché? Perché io credo alla semplificazione, ma su idee comuni, mentre a destra la semplificazione si è fatta sulla leadership di Berlusconi, lì comanda uno, e purtroppo per loro e anche per il paese alla fine, perché il governo non ha retto, questo non ha funzionato perché non ha risolto i problemi, e a sinistra si è tornati a sinistra. Cioè, quello che sta emergendo oggi è quando Bersani va, e io ho stima di Bersani, è una persona per bene, non voglio polemizzare con lui, però quando Bersani va nella trasmissione di Fazio e dice cosa è la sua politica, ripropone esattamente i temi del XX secolo, cioè non propone in nessun modo, e qui avete ragione, l'idea di una proposta, contenuti, ma anche cose che dicano i nostri mantra del XX secolo sono finiti, perché destra-sinistra, come le abbiamo lette nel XX secolo, non esistono più. Qui c'è la domanda di Martini su Fini e Casini, ma è evidente che Fini deve portare al nuovo approdo i consensi di coloro che sono stati con lui in questi decenni, ed è quindi naturale che spieghi, più che com'è la destra nella politica, come è cambiato lui, perché le cose che ha detto Fini da Saviano l'altra sera da Fazio sono cose talmente condivisibili anche da me, che di destra non sono mai stato, che dimostrano come l'avvicinamento è nei fatti e come questo tipo di confini, purtroppo devo dire, proprio il panorama politico disegnato da Bersani su le modalità un po' di un egualitarismo d'antan, dimostrano invece di essere il tentativo di chiudere le porte della stalla, perché stanno scappando tutti i buoi verso Vendola, verso la sinistra, verso Di Pietro, eccetera eccetera. Infine, i sondaggisti ci credono? No, i sondaggisti non ci credono per niente al terzo polo, al nuovo polo. Sono tutti rimasti sorpresi del fatto che tante persone, stanche di questo bipolarismo fallito, si aspettino proprio che persone diverse tra loro si incontrino. Vede, Fini e Rutelli sono stati simbolicamente, casualmente, all'inizio proprio di questo bipolarismo italiano, no? Noi abbiamo, con l'elezione di dicembre 93 per il sindaco di Roma, abbiamo iniziato questa competizione bipolare, e in quella competizione scese in campo, tra virgolette, Berlusconi. Come no? Che schierandosi per Fini contro di me, iniziò la sua carriera politica. Che i due protagonisti di questo inizio oggi si ritrovino, al di là dell'alchimia politica, io mi trovo sostanzialmente d'accordo con la grande parte delle cose che dice Fini, esattamente come non eravamo d'accordo 15 anni fa. Oggi noi siamo su posizioni molto simili, questo vale anche per Casini, per una larga parte degli argomenti, poi ci sono anche sensibilità, culture diverse, ma è un segno, secondo me, che gli italiani apprezzano, perché vedono chi si è diviso ieri, che rischiando, perché mi permetta, io ho lasciato quello che avevo, non solo mi sono dimesso dalla posizione che avevo in Parlamento, ho lasciato nel Partito Democratico una posizione che era sicuramente di minoranza, ma certo che era garantita, no, in termini di carriera politica, se la mettiamo così, ma non è questo. Tutti noi abbiamo rischiato rispetto a quello che avveniva per convincimento, perché abbiamo visto che il nostro paese, abbiamo alcuni anni ancora per dare qualcosa al nostro paese, penso di sì, e questi anni, l'esperienza che abbiamo preso, la maturità che abbiamo in una qualche misura accumulato, acquisito, la dobbiamo mettere a disposizione del risolvere i problemi. Io ho fatto per 7 anni, ultima cosa, il sindaco di una grande città, so cosa vuol dire il governo, l'amministrazione, affrontare e cercare di risolvere i problemi, non mi interessa solo la politica pura. So quanto gli italiani sono stufi della dialettica politica, però quanto alla fine gli italiani scelgano in base a un giudizio politico, il motivo di fondo per cui hanno scelto Berlusconi molte volte sulla sinistra. Oggi noi dobbiamo costruire una strada nuova legata alle soluzioni difficili per l'economia, perché oggi il dramma del nostro paese è il downturn, è la crisi economica, è la depressione economica, è la perdita di lavoro. Non sono un catastrofista, anzi so che dobbiamo mettere in campo però delle soluzioni molto coraggiose, perché altrimenti il paese torna indietro e questa logomachia politica accelera questa crisi. Io temo, a dire la verità, che l'elettorato, spesso in questi 16 anni ci sia stata una specie di separazione tra l'intenzione di chi diceva, essendo anti-berlusconiano, avendo tante ragioni dal suo punto di vista per esserlo, bisogna superare questo bipolarismo, perché il bipolarismo italiano alla fine diventa Berlusconi, diventa questa anomalia malata. C'è tutto un filone di opposizione a Berlusconi fin dall'inizio, oggi più forti che mai di nuovo, che è convinto che il male italiano sia Berlusconi, in termini etici, in termini di anomia diffusa attraverso i comportamenti nell'ordinamento, attraverso gli scudi fiscali, attraverso le alleanze con la malavita, la camorra. Basta leggere Repubblica tutti i giorni, cioè non mi invento niente, non c'è dal mio punto di vista niente di male per chi lo crede, tranne che poi alla fine questa tossicità in 16 anni diventa, sostituisce l'emoglobina nel sangue da una parte e dall'altra. C'è chi ha pensato tante volte in questi 16 anni che il bipolarismo, essendo Berlusconi, essendo questa l'idea che aveva di Berlusconi, fosse un bipolarismo così malato che bisognava superarlo. Alla fine però gli elettori spesso si sono rivelati più bipolaristi di quanto immaginassero gli anti-berlusconiani. Allora il problema è che per cambiare l'offerta politica forse bisogna cambiare la legge elettorale prima, perché a oggi un terzo polo, quando anche andasse, come dicono i sondaggisti, 20-21%, fate un blocco coeso insieme, arriva anche Montezemolo, poi glielo dovrò chiedere, perché vedo il sindaco Cacciari che dice apertamente che va benissimo il vostro progetto, ma bisogna aggiungerci anche la popolarità di Luca Cordero di Montezemolo, le sue idee, la sua fondazione con l'idea del merito. Detto tutto questo, però, con l'attuale legge elettorale, lo sa meglio di me che cosa succede. Succede quello che succede, è accaduto a Mino Martinazzoli nel 94, che pure prese un bel po' di voti, ma naturalmente poi scomparve. Allora la domanda, ora che chiamo la pubblicità, ma appena torniamo che giro a Rutelli e Martini, è: la legge elettorale va cambiata prima perché è consustanziale al superamento di questo bipolarismo che, chiedo a Rutelli, è davvero così malato perché è Berlusconi? Perché significa, il giorno che Berlusconi non fosse più premio, non si può sperare che sia un bipolarismo comunque europeo che funziona, e allora bisogna cambiare la legge elettorale prima in qualche modo di andare a votare, oppure se non lo si fa, perché mi pare un po' complicato immaginare una maggioranza istituzionale in queste condizioni, è un progetto che poi magari gli elettori rischiano di smentire comportandosi in maniera più bipolare di quanto sembra oggi ai sondaggi, se Berlusconi come sempre si inventa una campagna elettorale delle sue. A tra poco, intanto pubblicità. Eccoci tornati in studio, ripeto l'interrogativo: bisogna cambiare la legge elettorale per far decollare un'offerta politica che superi il bipolarismo, oppure se resta questa alla fine, come dice anche il sondaggio oggi su Repubblica, che è un sondaggio che attesta la caduta verticale effettivamente di consenso del Popolo della Libertà, che passerebbe dal 37% delle politiche 2008 al 23,6% per il sondaggio di oggi, per il PD si passa dal 33,2% delle politiche 2008 al 24,8%, quindi in effetti invece cioè del 70% della politica del 2008, la somma dei due partiti fa a malapena 48%. Però la questione per Rutelli è: ce la si fa a cambiarla questa legge elettorale dicendo per finta che è solo sul punto sostanziale, cioè quella di non eleggere i camerieri e i segretari del partito, ma in realtà per smontare il bipolarismo, oppure altrimenti come fate? Ma, diciamo che con un cambiamento della legge elettorale le cose sarebbero più semplici, però siccome in Italia non ci piacciono le cose semplici, io penso che noi dobbiamo prepararci a far crescere questa scommessa politica con qualunque legge elettorale in base a questo discorso che stiamo facendo. Creiamo le coalizioni che sono in grado di governare e non facciamoci comandare dalle estreme. Questo è il punto di fondo, Giannino. Perché al di là di quello che lei diceva prima della pausa pubblicitaria, che non so, magari corrisponde più a un desiderio, ma assomiglia all'accanimento terapeutico, cioè riproviamo dopo tutto quello che abbiamo visto in 17 anni, ci abbiamo provato tutti ad avere un centrodestra liberale e moderato e un centrosinistra democratico e riformista. E invece ci troviamo con un centrodestra comandato dalla Lega e un centrosinistra in cui la forza centrale, diciamo così, è comandata ora da Di Pietro, ora da Vendola, a sua volta Di Pietro incalzato da Grillo, cioè le forze radicali, tra virgolette, cioè le forze collocate sulle estreme, comandano le coalizioni, impediscono loro di governare. Quando io ero nel Consiglio dei Ministri per quei 20 mesi del governo Prodi, ma io me lo ricordo bene i tentativi di affrontare argomenti di riforma, riforma del lavoro, riforma degli affitti, riforma di temi previdenziali, e trovandomi di fronte alla componente di sinistra radicale che aveva il suo peso decisivo, perché poi aveva i seggi in Parlamento e quindi anche se aveva magari pochi ministri, e poi in Parlamento le riforme non passavano, che diceva no. E questo non si può più fare, non è più pensabile nella situazione nella quale ci troviamo. E vogliamo a destra vedere ancora che comanda la Lega? Ma lo vogliamo dire in lingua italiana, caro Giannino, che questo federalismo come lo stiamo vivendo lo dobbiamo rimettere non in discussione le autonomie, l'Italia è basata sulle autonomie, le diversità dei territori, le vocazioni dei territori. Ma oggi questo federalismo costa un sacco di più. La spesa pubblica è cresciuta in Italia negli ultimi anni ed è cresciuta a livello regionale in modo drammatico. Stiamo moltiplicando i centri di spesa, si dovrebbero eliminare le società sparse degli enti territoriali, non lo si sta facendo. Si dovrebbero ridurre o abolire le province, non lo si fa perché Bossi dice di no. Ma di cosa stiamo parlando? Federalismo. Ma sapete quanto è cresciuta la spesa per acquisti? Rutelli, la fermo perché capisco, ma non siamo ancora cioè, benissimo. Però io, la domanda è: la cambiate, si può cambiarla prima la legge elettorale? Sì, ma ci proviamo. Comunque, secondo me il terzo polo, lo ha detto giustamente anche Casini l'altro giorno, punta a diventare il primo polo. Quindi con questa legge elettorale se non si può fare, perché diciamo lo si fa con quello che passa la situazione. No, perché con questa legge elettorale significa dover fare un'alleanza da fine a fino, perché altrimenti come si fa a tentare di diventare? Non ho capito. Perché con questa legge elettorale significa, per provarci, dover fare un'alleanza elettorale che va da Fini, come un pezzo del centrodestra antiberlusconiano, fino a chi ci sta a sinistra. Ma non esiste, non sto parlando di questo. Ecco. No, e contraddirei quello che ha detto. Per questo volevo semplicemente capire che cosa significa. Noi stiamo parlando di un'aggregazione delle forze che chi viene dal centrosinistra come chi parla, chi dal centrodestra come Fini, chi da una posizione centrista come Casini in questo periodo ed altri soggetti che sicuramente si metteranno in movimento nella politica e nella società per creare un'aggregazione che dica agli italiani: bisogna governare senza farci comandare dalla Lega a destra e dagli estremisti a sinistra. E questo è una sfida per il paese e ci si presenta davanti agli elettori in modo onesto, trasparente, preciso, dicendo ciò che siamo capaci, pronti e proponiamo di fare. Martini, i giornali in questi due giorni sono presi da una specie di corrente a ritroso che rialimenta l'ipotesi che il cavaliere Berlusconi possa in qualche maniera, con qualche coniglio fuori dal cilindro, rifarcela. Si parla di ripensamenti, si parla di... Ma è un'ipotesi concreta numericamente e politicamente, secondo te? per quanto siano emotivi i giornali italiani è cosa nota e proverbiale, quindi non mi affiderei più di tanto, diciamo, alle cronache di oggi, così diverse da quelle di ieri e da quelle di domani. Però la risposta di Francesco Rutelli è quasi impossibile riformare la legge elettorale, è sincera e però suggerisce un rilancio, nel senso che Rutelli, molto più di Fini e Casini, ha sempre avuto una vocazione modernizzante, non provinciale. Proprio per questo lui dovrebbe essere più sensibile ad un possibile paradosso. E cioè, il terzo polo, se facesse corsa elettorale solitaria, come lui ha appena ribadito, punterebbe implicitamente ad essere l'ago della bilancia al Senato, quindi implicitamente scommetterebbe sull'instabilità. E questo è un programma elettorale che, messo allo scoperto, non incoraggerebbe il voto utile a favore dei due vecchi poli così spompati eppure magari rivitalizzati da questo paradosso che si porterebbe dietro il terzo polo? E anche perché, se poi io giro l'interrogativo di Martini all'onorevole Rutelli, anche perché pur nel sondaggio di Repubblica di oggi, che sui partiti è, come vi ho detto all'inizio, alla domanda su il vincitore atteso, dice una coalizione guidata dal PD di Bersani, risposta nel sondaggio 33,7%, in crescita per carità rispetto al 25% che la stessa ipotesi otteneva nel settembre, ma una coalizione guidata dal PDL di Berlusconi ottiene ancora oggi nel novembre il 49,5%, quindi 16 punti in più rispetto a una coalizione guidata dal PD di Bersani. In discesa, certo, rispetto al 56,9% del settembre scorso, ma pur sempre in nettissimo vantaggio dal punto di vista dell'attribuzione del premio maggioritario. E quindi, onorevole Rutelli? E quindi lei conferma quello che stavo dicendo, francamente, perché se l'offerta è questa, e cioè se l'alternativa è tra destra e sinistra, in Italia vince la destra. E vince purtroppo però una destra che non fa la rivoluzione liberale, che probabilmente anche Giannino sperava, confidava ci fosse. Nessuna rivoluzione liberale, non fa riforme, non fa nulla. Io ho votato la riforma dell'università e l'ho votata convintamente, perché è una riforma positiva, dignitosa. E, però se lei ci ragiona, perché valorizza il merito, in una certa misura concorre a tagliare gli sprechi, l'università ne ha bisogno, poi non è perfetta, sono stati approvati una decina di emendamenti miei alla riforma, lo credo di averla migliorata. Aggiungo, dico una cosa di cui nessuno di voi si è accorto, giornalisti, salvo il Fatto Quotidiano, ne voglio dare atto. Io ho proposto di finanziare, a proposito del finanziamento ai partiti, la riforma dell'università togliendo soldi ai partiti, e ho fatto passare, non se ne è accorto nessuno, un emendamento che taglia di 20 milioni di euro, 40 miliardi, il finanziamento dei partiti per darlo ai ricercatori. Sono abbastanza scandalizzato, non a modo di dire, non ci scandalizziamo più di nulla in Italia, che nessun grande giornale si sia accorto di questo, cioè che il Parlamento ha legiferato per ridurre drasticamente, in una misura importante, il finanziamento alla politica, per un mio emendamento che è stato approvato, forse non se ne sono accorti neanche i senatori. No, questa è l'unica ipotesi che spiega come possa essere passato, ed è stato abile se non gliel'ha fatto spiegare. Ecco, però per ora è legge, ad oggi è stato approvato, quindi è alla Camera in esame. Forse è meglio non rivelarlo troppo, perché sennò la Camera decade. Però se voi mi date una mano, magari. No, scherzando, invece ha ragione. Tagliamo altri 20. Facciamo ammenda. Facciamo ammenda. Sempre a dire, tagliamo i costi della politica. Eccola una cosa concreta. Chiunque su questo, e soprattutto se ci riesce, come ci è riuscito lei in uno dei rami del Parlamento, non solo il nostro mestiere dovremmo saperlo fare meglio, ma gli ha levato un monumento, per quello che mi riguarda, almeno il mio punto di vista, avete bisogno della benzina aggiuntiva di Montezemolo e confida di metterla nel motore oppure no? Ma penso che tocchi a lui, tocchi a Montezemolo, come tocchi ad altri protagonisti della società, diciamo, della società produttiva, del mondo culturali, civili, che non sono direttamente impegnati in politica, dire cosa vogliono fare e impegnarsi. Credo che oggi debba crescere il numero di persone che, in una situazione così difficile per l'economia, diano una mano al loro paese e lo facciano con umiltà, con gioco di squadra, tutti, come credo dobbiamo fare noi invece politici, cioè noi che abbiamo dedicato la vita al servizio pubblico, alla politica, cioè è un momento nel quale prima di chiedere, parlo di noi, ma io cosa faccio, il ministro dell'agricoltura, faccio, no, prima di sapere o chiedere cosa, qual è il posto, il ruolo per sé, si debba dire uniamo le forze, perché oggi l'Italia, i venti gelidi che arrivano dall'Irlanda, dal Portogallo, la richiesta della Germania crescente di legare la prospettiva dell'Unione Europea e dell'Euro alla fuoriuscita dal debito, dall'indebitamento, interpellano l'Italia molto fortemente. Allora, una cosa è tenere prudenza nei conti, ed è giusto, altra cosa è l'ambiguità sul cosiddetto federalismo, che invece costa e spreca, altra ancora invece impegnarsi per la ripresa economica, cioè per la crescita, perché se l'Italia non torna a crescere, tutto quello di cui parliamo va in vacca. Posso svolgerle una considerazione brevissima, perché noi abbiamo molti ascoltatori nel nord, ci sentono anche nel centro-sud, ma il più è concentrato nel nord, e quando lei dice questo federalismo ci costa, c'è stata un'insurrezione, perché dicono guarda che la spesa corrente, che dal 2000 al 2009 al 2010 è ripresa ad aumentare il 2% l'anno, questa è la gravità, mentre prima si era fermata negli anni 90, però dicono i nostri ascoltatori, in effetti secondo me hanno ragione, onorevole Rutelli, che cresce, è ripresa a crescere la spesa corrente proprio perché non c'è alcun accordo sulle regole, su come si attua il 118, sulla perequazione, proprio perché la spesa a livello locale poi va a Roma per ottenere il ripiano, cioè proprio perché non c'è un accordo su come si attua quel dannato titolo quinto e su come si fa il federalismo fiscale. Lo dico perché ho l'impressione che la demonizzazione del tema federalismo uguale Lega che comanda come estrema nel nord porterà inevitabilmente, per quello che succede al PDL e il calo di Berlusconi, e per quello che succede avendo tutti gli altri poli e forze politiche nei confronti della Lega un interlocutore polemico, porterà l'ira di Dio di voti alla Lega. Poi dopodiché sarà meglio per voi, non lo so. Guardi, la Lega è ancora in una fase di crescita, ma alcuni italiani nel nord cominciano a porsi questo doppio interrogativo. Ma è vero che esiste un inizio di radicamento di poteri mafiosi nel nord? Ma lei sposa la linea Saviano, ma ce lo vede Bossi e Maroni che sono no, lì? No, ma guardi, non so se cosa scenta, ecco, ce lo vede o non ce lo vede, io dico semplicemente che è una realtà e che un certo tipo di così luogo comune che noi abbiamo avuto, no? Per cui certo tipo di poteri sono poteri che sono confinati in una parte del paese. No, per carità. Ecco, ci lascia, siccome io queste cose le so quanto le sa lei, quanto le sanno gli ascoltatori, ma le so anche di più. Certo, ho visto i rapporti delle forze di investigative, dei servizi di informazione legati alla crescita dell'insediamento criminale nel nord del paese, come peraltro in altre parti d'Europa, attenzione. Ecco, io penso che bisogna collaborare tutti fuori della retorica, primo. Secondo, ed è un tema, guardi, che riserverà altre amare sorprese, non c'è altre dubbio. Amare sorprese, sì. E quindi comporta che ci uniamo tutti, non è che noi dobbiamo dire, non è che la mia tesi è che la mafia è del nord, sto dicendo che ormai abbiamo a che fare con un sistema di potere economico. Non c'è dubbio. Che non può più essere liquidato soltanto con malgoverno, malaffare e criminalità nel mezzogiorno, che ci sono, inefficienza delle amministrazioni, che purtroppo... Però diciamo, Rutelli, che questo suona a molti elettori del nord come una polemica un po' fuori posto su Lega e federalismo, capisce? Perché sennò sarebbe come dire che siccome i poteri malattori sono nel sud, tutti quelli che beccano i voti nel sud bisogna stare attenti, capisce che non è un grande... perché è ovvio che non bisogna mettere tutti sullo stesso, almeno a me pare, però... Un secondo, allora, c'è l'informazione sulla circolazione stradale, poi riprendiamo esattamente con da dove ho interrotto l'onorevole Rutelli. Allora, eccoci tornati, avevo interrotto l'onorevole Rutelli che stava rispondendo su Lega Federalismo. Dunque, è un tema enorme, colossale, vorrei che lo affrontassimo con serietà, nel senso che io ho votato a favore di trasferimenti di poteri e di competenze agli enti territoriali, agli enti locali e alle regioni, ma ora è arrivato il momento in cui noi dobbiamo tirare le somme, è arrivato il momento nel quale dobbiamo riuscire a fare due numeri. Da cosa nasce la spinta del federalismo? Cito due cifre. Nel nord si tolgono al fisco imposte per 120 miliardi, al sud circa 60. Uguale, noi paghiamo le tasse, voi no. Ogni euro investito al sud produce una perdita di 20 centesimi, mentre al nord genera un utile di 5 centesimi. Uguale, voi siete inefficienti, noi siamo efficienti. Questo è vero, vero, vero, punto. Cosa è successo da 10 anni? Questa è stata la spinta del Nord contro gli sprechi e l'inefficienza nel Mezzogiorno e il senso che le proprie tasse vadano a finanziare questa inefficienza. Cosa è accaduto da 10 anni a questa parte? Guarda, sono 10 anni che abbiamo un trasferimento di poteri importante alle regioni, che la spesa pubblica dal 2001 è aumentata di 6 punti rispetto al PIL. 90 miliardi di euro. Di questi 90 miliardi, la parte più grande di crescita è andata nel sistema territoriale. È una cosa vera, concreta. Sì. Nel frattempo il peso delle tasse non si è ridotto a livello nazionale, ma le imposte locali sono cresciute del 50% e le tariffe locali viaggiano con una dinamica che è doppia rispetto all'inflazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa dinamica non è una dinamica virtuosa, sono 10 anni che ormai ce l'abbiamo, e chiedo scusa, 10 anni in cui... ma è per quello che bisogna fare. No, Giannino, in questi 10 anni, 8 anni ha governato la Lega in Italia. Vabbè, ma io non dico di Tremonti no, ma lei lo sa meglio di me, ma scusi, allora, il problema è che qua, se non c'è un'autonomia impositiva proporzionata ai poteri dati col titolo quinto, quelli spendono di più, poi vengono qua e chiedono, vanno a Roma e chiedono la perequazione, però questo lei lo sa meglio di me, col federalismo da attuare perché ci siano più risorse ad amministratori in proporzione ai loro compiti e meno possibilità poi di chiedere ex post, di sanare i buchi tutti quanti, e non c'entra niente, perché lei mi sta dicendo come se di 10 anni avessimo il federalismo. Da 10 anni abbiamo un titolo quinto che produce quello che dice lei. Nel nord temo che la gente pensi questo e dica a chi ripete che è grazie al federalismo che costa di più, dica, se domani la Lega ripiglia a dire secessione, che quelli hanno ragione. Dio non voglia davvero, io solo questo, ma io guardi non faccio il portavoce di nessuno. Allora, lei è un economista, è uno studioso, un analista dell'economia attento e documentato. Gli organismi finanziari internazionali hanno pubblicato di questo decennio i dati sulla crescita. Ora è chiaro che un paese che cresce molto può crescere di meno. Ma noi il paese no. Che è cresciuto di meno al mondo è Haiti. E poi vediamo noi, ha ragione. Ha qualche problema. Dopo Haiti vengono l'Italia, appena 2,43%, qui ho qui i dati. Come no? della BCE e dell'FMI, 2,43%, il secondo paese che è cresciuto di meno al mondo, sì. Al mondo in questi 10 anni. Allora voglio dire, è ancora tempo di inseguire questo tipo di leggenda, avendo al governo per 8 di questi 10 anni gli alfieri del federalismo, possono continuare a dire che la colpa è della politica centralistica, quando la politica centralistica l'hanno avuto in mano loro. Qual è la risposta? Scusatemi. Non lo so, io temo, adesso noi dobbiamo avviarci alla conclusione, però temo che questo atteggiamento vi porti ad amare sorprese nel nord, però magari mi sbaglio. Giannino, lei fa politica dicendo no, questo, no, però. Ma io non la voglio fare, infatti per questo sto dicendo, sto spiegandomi dicendo non è compito mio. Ho fatto io una domanda, cioè le ho detto io. Lei sa in che maniera la Grecia sta gestendo la sua crisi economico-finanziaria? Però, togliendo poteri agli enti territoriali. Sì, noi non dobbiamo fare questo. Noi dobbiamo aprire, è stata approvata una mia mozione al Senato la settimana scorsa, federalista, che dice che noi dobbiamo creare un meccanismo competitivo tra i territori. Cioè, per noi il federalismo significa dare la capacità ai cittadini di scegliere sulla base, anche sul piano dei poteri alle imprese, al privato, cioè creare un meccanismo di competitività anche dall'offerta di servizi che può essere data dal privato. Chiaro? Non sta proponendo uno schema centralistico né statalistico. Ma lei mi deve però dire, mi scusi, oltre che alimentare la leggenda, perché i costi standard? Perché ancora oggi la garza negli ospedali costa 10 in Calabria e magari 4 in Lombardia? Cosa aspetta il governo per rendere esecutivi i costi standard? Ma Onorevole Rutelli, io non le posso rispondere perché sennò faccio politica. Lei sa meglio di me che l'iter dei decreti attuativi non è che il governo li emana, però io in questo io sono contento che oggi abbiamo approfondito con equilibrio la posizione dell'onorevole Rutelli, di una componente di questo terzo polo. Mi dispiace per le telefonate che devo dire erano molto a favore, quindi le telefonate che ci sono arrivate confermano quello che si legge nei sondaggi, cioè che c'è un bel po' di italiani stufi di questo bipolarismo che non funziona. Sarà per una prossima volta, quindi io ringrazio l'onorevole Rutelli e ringrazio Fabio Martini in regia, ringrazio Carmelo Lauricella, Alessandro Marco Tulli in redazione e Franco Piantanida, grazie a cui siamo andati in onda. Linea Generale Radio, appuntamento a domani.